eccitavo con le scritte sui muri del cesso. Lo dissi a Sofia, ne ebbe disprezzo. Il nostro potere e il nostro sesso fusi nella pentola a repressione di sua madre, regina della colpa di un mondo senza tempo. Da tempo la cuoceva a fuoco lento. Padrona del padre che ci molestò come un prete sadomaso dell'alto medioevo, stalinista, protettore del corpo della figlia. Ognuno ha il suo ruolo in una famiglia, oppressore o oppresso, tutto ruota intorno al corpo depresso. Con le scritte sui muri del cesso. E la ruota scende sui muri della storia, ma quando arriva a me trova memoria. Si rompe la diga la gloria sulla madre che custodiva il fuoco e oggi custodisce un vuoto. Fallo, è giunto il momento di fermare il cammino.